bisogno di lei. Ora conta le ore, e quando lei tornerà, riesco a immaginare una vita, la quale al centro tu non ci sei. Sfondo nei tuoi occhi quando guardi e poi mi tocchi, una strana sensazione di follia ed eccitazione, perché ho bisogno di te, del tuo sorriso, perché ho bisogno di te, delle tue carezze. Quando ho bisogno di te non so aspettare, io ho già bisogno di te. Quando ho bisogno di te, ho più bisogno di te. Calma, piccolo cuore, vedrai tra un po' tornerà, e tutto il calore che serve lo porterà. Potessi immaginare una vita, sarebbe poi diversa da questa. Ma mi basta che mi guardi dentro gli occhi e poi mi tocchi, è una strana sensazione di follia ed eccitazione, perché ho bisogno di te, del tuo respiro, perché ho bisogno di te, delle mani sul cuore. Lo so, ho bisogno di te per non morire. Ho bisogno di te, quando ho bisogno di te, ho più bisogno di te, perché ho bisogno di te, del tuo calore, perché ho bisogno di te.